Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti in un'altra puntata di Lucio nelle tenebre. Oggi, dopo aver parlato la settimana scorsa di Cosa Nostra, parleremo di 'Ndrangheta e abbiamo qui con noi la professoressa Stefania Pellegrini. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Anche in studio Eleonora e Valentina. Ciao. Allora basta gli indugi e passiamo alle domande. Dal punto di vista temporale, quando possiamo collocare le origini della 'Ndrangheta? Come tutti i fenomeni sociali è impossibile dare una data certa. Possiamo individuare un periodo storico che va dal fine 1700, primi del 1800. Fondamentalmente i movimenti popolari, anche a volte sedati con la forza, portarono il re, dopo il terremoto del 1783, a inviare l'abate Galliani proprio in Calabria per verificare un pochino la situazione. E dalla relazione che fece l'abate Galliani emerse proprio una situazione in Calabria caratterizzata proprio da prepotenza da parte dei baroni, da una gestione inusitata della ricchezza e una ferocia proprio nel gestire di amministrare anche queste città. Fondamentalmente anche come è accaduto per Cosa Nostra siciliana, anche in Calabria, soprattutto in Calabria, è legato alla gestione dei fondi fondamentalmente e dei feudi. L'impossibilità dei baroni di gestire, di amministrare personalmente il feudo ha portato a contattare personaggi, insomma, di vario genere a gestire e amministrare sia i fondi sia i lavoratori che prestavano servizio presso questi fondi. E c'è anche una difficoltà a capire da dove nasce la 'Ndrangheta. Ci sono varie tesi per quanto riguarda questa nascita e queste origini. Dal punto di vista giuridico, quali sono i primi documenti che testimoniano la presenza della 'Ndrangheta sul territorio calabrese? Nel 1988 è stato ritrovato il primo codice della 'Ndrangheta a Nicastro. Era un codice con 17 articoli riguardanti proprio gli obblighi, i doveri degli affiliati, la formula del giuramento, la parola d'ordine per riconoscersi e anche proprio per distinguersi dalle altre società. Il fatto che ci sia un codice comporta anche il fatto che c'è comunque una forma di ordinamento sottostante ed è un riconoscimento praticamente dal punto di vista anche giuridico normativo. Da questo punto di vista ovviamente sono carte che sono state utilizzate a livello giudiziario. Ma questi codici, lei sa se erano tipo codici scritti, codici... Era un codice scritto, infine la caratteristica proprio anche della 'Ndrangheta è proprio questa, la codificazione scritta venga trovata, quindi è un vero e proprio codice con le diverse parti, con le norme comportamentali e anche le sanzioni che dovevano essere applicate in caso di violazioni di queste norme. E lei le conosce alcune di queste norme? Sono norme che poi in realtà sono ancora tutt'oggi vigenti, no? Che fanno riferimento ai cosiddetti falsi valori della mafia in generale, come il discorso della fede e nei confronti dell'affiliazione, della famiglia, il giuramento naturalmente fatto col sangue, il dovere dell'onore di onorare il giuramento, il fatto di lavorare, di essere comunque legati alla morte con la società di affiliazione e poi tutta una serie naturalmente di sanzioni che non sono necessariamente sanzioni che arrivano alla morte, ma possono essere sanzioni che possono anche mettere in discussione l'onore dell'affiliato, e anche queste sono sanzioni sociali molto molto gravi, non necessariamente sono punitive nel senso di fisiche, ma sono anche degli affronti all'onorabilità del soggetto. Bene, adesso facciamo una piccola pausa e lanciamo il pezzo Get Up Stand Up di Bob Marley. A tra poco. For your right, get up, stand up, dancing and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Jump, get up, stand up, jump, jump, stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in a Jesus' name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for a yeah, right. Yeah, so yeah. You better get up. Rieccoci in studio e ora spostiamoci un attimo di tema e allora sappiamo che nel periodo in cui sorge la 'ndrangheta si sviluppa anche nell'Italia meridionale un altro fenomeno che è il brigantaggio. Ecco, ci sono dei nessi tra questi due fenomeni, delle collaborazioni o non ci sono? Allora, per quanto riguarda i rapporti tra specificatamente 'ndrangheta e brigantaggio, ci sono tesi opposte. C'è una tesi che sostiene che il brigantaggio e 'ndrangheta nascono dalle stesse radici, cioè quelle contadine, e si sviluppano esattamente attraverso le stesse modalità di interazione con la comunità. In realtà quella più accreditata porta al fatto di separare i due fenomeni. C'è sicuramente una unicità a livello di temporale, nel senso che siamo nello stesso periodo, come appunto hai detto tu, siamo all'inizio dell'Ottocento in generale, e sono figure che si contrappongono comunque al potere centrale. In realtà si può dire che l'andrangheta ha sfruttato questa visione del brigante come gentiluomo, volendosi accostare al brigante. In realtà c'erano differenze sostanziali, perché comunque il brigante veniva anche descritto come l'uomo coraggioso, leale, che non nascondeva mai la propria responsabilità rispetto all'omicidio e quant'altro. Un 'ndranghetista è sempre stato invece un soggetto che utilizzava l'inganno, che in realtà era molto crudele, quindi tutt'altro che coraggioso, e che cercava di eliminare comunque i testimoni, che voleva coprire, tutelare. Il brigante non aveva nessun interesse a mascherare le proprie azioni, perché era una visione positiva dell'iconografia praticamente popolare. Sicuramente non è mai stato quello del 'ndranghetista. Quindi direi che la cosa migliore è tenere separate i due fenomeni, anche che se naturalmente sono emersi in quel periodo storico e in quel contesto sociale. Quindi si contrappone in pratica da una parte un lato, cioè fondamentalmente un lato di protesta nei confronti di un potere scostituito, quale quello del governo, del regime borbonico, e dall'altra parte c'è invece un gruppo di persone che è nato all'interno del regime borbonico stesso. Sì, fondamentalmente è questo, nel senso proprio una come dire, il brigante era colui che lottava per l'indipendenza fondamentalmente, utilizzando naturalmente strumenti ovviamente non leciti. illeciti, però era una figura mitizzata, era comunque un eroe, cosa invece naturalmente non si può dire per l'andranghettista. Ovviamente stiamo parlando di entrambe di figure che usavano strumenti illeciti, naturalmente. Visto che nell'ultima puntata abbiamo parlato di Cosa Nostra, possiamo dire che strutturalmente mafia siciliana e 'ndrangheta siano due fenomeni differenti attualmente. Possiamo dire questo anche per le loro origini? Allora, innanzitutto io non sarei così convinta. Allora, bisogna tornare un attimino indietro rispetto alla tua domanda, nel senso che tu hai detto per scontato che siano due fenomeni strutturalmente diversi. Non c'è anche in questo caso la certezza, nel senso che nelle ultime indagini, quelle tra l'altro fatte proprio in Lombardia con l'indagine crimine, è stato messo in discussione questa diversità. La diversità avrete forse parlato, nel senso la struttura apicale, no? Piramidale di Cosa Nostra, e invece diciamo la diffusione territoriale orizzontale tra le 'ndrine per quanto riguarda appunto la 'ndrangheta. Questo è quello che è sempre stato sostenuto, nel senso che sì, c'è una organizzazione, diciamo, in cui c'è Mamma Santissima a San Luca che gestisce tutto, ma non è una struttura piramidale come quella di Cosa Nostra, mentre parte delle indagini appunto del nord Italia hanno cercato di dimostrare, cioè emerge questo elemento di differenziazione rispetto al passato, cioè anche per quanto riguarda l'andrangheta si dice c'è una struttura semiverticistica. Cosa ha portato gli inquirenti a sostenere questo, praticamente cambiando completamente la visione che c'era stata fino ad allora di queste differenze, e il fatto che si sono resi conto che tutto partiva comunque da San Luca. Da San Luca partivano tutte gli ordini e tutto veniva amministrato da San Luca, nel senso che a livello locale nel nord si dava una, diciamo, libertà di amministrazione dei beni e degli affari, però nulla poteva essere deciso in una zona lontana dal cuore, praticamente, che rimane sempre il paesino arroccato nell'aspromonte di San Luca. L'origine dell''ndrangheta, quindi, possiamo dirla differente da quella di Cosa Nostra o si assomigliano come fenomeno? Ma l'origine è similare, però c'è da dire che la Cosa Nostra è un fenomeno autoctono, cioè nato in Sicilia. Sull''ndrangheta anche in questo caso c'è questo velo di mistero. Il fatto che io non sono riuscita a dare delle risposte certe vi deve dare un segnale, cioè la potenza dell''ndrangheta sta anche in questo, nel senso che non si è ancora riusciti a capire esattamente la struttura, come si organizza, anche le sue origini, cioè anche capendo giustamente la scelta che avete fatto voi di partire dal passato, dalle origini, è fondamentale, ma con l''ndrangheta non abbiamo notizie certe, perché l''ndrangheta è riuscita a creare un velo di mistero intorno a sé che ha portato a non occuparsi del fenomeno e naturalmente a farlo crescere in sottotraccia. Anche per quanto riguarda le origini, dicevo appunto che la mafia ha avuto origini in Sicilia da siciliani. Per quanto riguarda le origini dell''ndrangheta, anche in questo caso ci sono diverse tesi. O si parla di affiliati alla camorra che sono passati nel territorio calabrese, o addirittura si parlava di confinati esiliati dalla Sicilia verso la Calabria. Quindi anche in questo caso c'è un mistero che avvolge dall'origine ad oggi, e questo fa proprio rappresenta una forza di questa mafia. Quindi, per quanto riguarda le origini del termine 'ndrangheta, ci sono delle conoscenze certe? O? Sono, anche lì si fa riferimento sempre all'iconografia dell'uomo, insomma, dell'uomo forte, dell'uomo coraggioso, derivazione proprio etimologia greca, 'ndranghetos e altro. In realtà bisogna anche capire se è reale o se è una costruzione per creare consenso, per creare mito, per creare comunque un'immagine popolare vicino al territorio e alla popolazione. Bene, ringraziamo la professoressa Stefania Pellegrini per essere stata qui con noi e per la sua pazienza, per la nostra parziale ignoranza nel merito. E adesso vi lasciamo con una canzone, ovvero Briganti se more, dal tema appunto della domanda Briganti, riprendiamo il canto popolare Briganti se more. Grazie ancora. Grazie a tutti, ciao. Mamma busata, chitarra e tambur, ma che sta musica sa da cagna, ma brigante facimma paura, e qua scuppetta pulimma canta. La scuppetta purimba canta, e mo cantamma sta nova canzone, tutta la gente sarà bambara, un ce ne fottero re furbone, la terra nostra è un sotto ducca, la terra nostra è un sotto ducca, e i paesi era base legata, e società bestemmia per sta libertà, è una bestemmia per sta libertà. Rubrica, rubrica, buffie! Ed eccoci tornati al nostro momento preferito della puntata, la rubrica buffie. Oggi vogliamo un po' cambiare genere e vogliamo parlarvi di uno spettacolo teatrale, uno spettacolo che abbiamo visto alla manifestazione nazionale di Libera il 16 marzo scorso e che si chiama La Spremuta. Di cosa parla questo spettacolo? Allora, questo spettacolo è intanto un monologo di Peppe Casales e parla di due personaggi, è incentrato su questi due personaggi che sono uno un migrante che si trova a Rosarno e l'altro il figlio di un 'ndranghetista. Lo spettacolo è incentrato sulla rivolta che è avvenuta a Rosarno il 7 gennaio del 2010, la rivolta dei migranti che erano costretti in condizioni disumane a raccogliere le arance. Per questo motivo appunto lo spettacolo si chiama La Spremuta e racconta queste due storie parallele, quindi fa vedere molto bene che alla fine si intrecciano con un colpo di scena e quindi fa vedere molto bene quali sono come la situazione possa essere particolarmente drammatica per un immigrato che arriva in Italia e si trova a essere sfruttato da quella che molti hanno detto non era mafia, ma di fatto è improbabile che non ci fossero implicazioni di questo tipo. Comunque è uno spettacolo che è ancora in giro per l'Italia e quindi vi consigliamo di cercarlo e di andarvelo a vedere. È stato patrocinato da Libera e dalla rete Radici di Rosarno. E niente, direi che per questa puntata è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata con delle sorprese, grosse sorprese, importanti sorprese. E vi lasciamo con Losing My Religion dei Ram. Ciao, ciao ciao ciao a tutti. was just a dream. That was just a dream.